Buonasera, sono in linea? No, in linea con Radio Bubù. Ma con chi cazzo deve essere in linea lei? Scusi, me lo spieghi. No, con perché chi deve... ho chiuso la radio. Ma scusi, ma con chi dovrebbe... Sta parlando con me, sono Bucciani, qui c'è Parenzo. Ma perché non legge un libro? Perché non legge un libro? No, ma mi fa impazzire questa cosa qua. Perché non si legge il rapporto che l'Unione Europea ha fatto sullo stato di salute del governo di Orban? Sui diritti violati? Perché non legge? Aspetta, lei ha interesse a leggere il rapporto della Commissione Europea sui diritti di Orban, Roberto? Lei ha interesse? A me non me ne frega un cazzo proprio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Donato, tu sei stato il campanello di allarme che ci ha mostrato quanto carente fosse il servizio sanitario nazionale, perché nel momento in cui in un paese avanzato, un paese occidentale, si abbandonano le persone con evidenti psicopatologie a se stesse, al telefono, alla radio, a Cruciani, poi succedono queste cose. Ma Donato, io ti voglio dire, io ti sono amico, io ti posso dire, Donato, ti lascio il mio numero di telefono, chiamami, parliamo, ti sfoghi con me, ti confidi con me, perché tu hai bisogno di una persona buona che ti dia una mano, perché tu sei uno con grossissimi problemi. Io vengo a casa tua e ti scortico in nome del mio Dio, grandissimo uomo di merda, lurido, schifoso, immondo. Ma non è che lo possiamo chiamare Conato da Varese? Sono cristologico in questo, io ti voglio aiutare, Donato, capisci? Voglio lasciarti il mio numero di telefono personale, Cruciani lo sa, te lo dà e parliamo, perché tu hai bisogno di tanto aiuto. Ti metto a parlare di tua moglie, mi metto a parlare di tua moglie l'ho vista prostituirsi in via della Mastracca. Soldi che fa Confindustria, neanche un podcast decente possiamo avere. Mandatevene a fa' culo. Cruciani, ciao. Io non ce la faccio più. Io ho provato a non chiamarvi in questi anni. Che è successo? Anni di nuovo? Guarda, io sono un commercialista qua a Milano. Ho uno studio, dovrei teoricamente far parte di quella che è la maggioranza silenziosa. Cioè, invece non ce la fai più. In realtà io ho una cosa dentro che devo dire a quel cagnolino che è di fianco, il barboncino. Una frase veloce, come la allora, col massimo rispetto delle istituzioni, della mia professione, tutto. Parenzo, tu sei proprio una piccola tenera testa di cazzo. Grazie per aver chiamato. Ciao, ti saluto anch'io. Questo era un altro della Val Camonica, si sentiva dall'accento, I will be the greatest president that God ever created. Il collegamento da Roma, David Parenzo, eccolo qui, che c'è David, che c'è? Già sta esultando il coglione. Calma. Biden, avanti tutta nel riscatto democratico degli Stati Uniti d'America, la più grande democrazia del mondo. In collegamento da Abano Terme, seduto, anzi mollemente adagiato sul suo lettone, forse, Alberto Gottardo. Forse per l'ultima volta, perché la più ridicola democrazia del mondo, esatto, rischia di essere la L'Italia, nostra. Non sappiamo ancora se domani i ristoranti in Veneto, in Trentino, in Piemonte, in Lombardia, a Genova saranno aperti, saranno chiusi, se gli hotel termali saranno aperti, saranno chiusi. E sai cosa dico a tutti finalmente quelli che dovevano decidere? Fuori da quell'albergo. Cosa posso dire a quelli che dovevano decidere e non hanno ancora deciso nulla, facendomi interprete di migliaia di imprenditori? Sì. Andate a farvi fottere. Bravo, bravo Gottardo. Sotto voce. Ha ragione Gottardo, sotto perfettamente. Ho sentito un Barisoni scatenato, un Barisoni che me l'ha fatto venire quasi barzotto da quanto era incazzato Barisoni. Combatti Barisoni, cazzo! Combatti con noi la battaglia contro quelli che non decidono un cazzo perché si cagano addosso come solo Parenzo sa fare. No, se Parenzo fosse al governo saresti come Speranza. No, il contrario. Saresti come Conte. Contrario. Saresti come Casalino. Il contrario. Tu sei uno che ha una paura parlando e vuoi che tutt'altro. Il resto del paese abbia paura io come te. Io mi muovo e lavoro normalmente. Combatte. Il paese combatte, ma tutt'altro, allora, devi dirlo al governatore della Lombardia. State giù tutti e due. Allora, la cosa più incredibile del mondo è questa, che l'ho detto anche il sindaco di Milano, perché non dico una cosa rivoluzionaria, che un bar di Milano, un negozio di Milano, un bar del Piemonte, un negozio del Piemonte, ma posso dire anche un bar di Bolzano, un negozio del Molise, questo non sanno, albergo del Veneto, quell'albergo del Veneto, non sanno ancora oggi stasera, non sanno se domani possono aprire o no. Vi dovete vergognare, come ladri vi dovete vergognare. Dovete andare certo, a casa, certo, pedate nel culo, certo. Solamente in nome di Dio andatevene, diceva qualcuno in Inghilterra. Una roba incredibile, prima di tagliare la testa al re. È incredibile. In nome di Dio, ma questo al di là andatevene. Di quello, al di là, ma di quello, al di là niente, di quello che uno possa pensare sul virus, sulla pericolosità, cioè, ognuno di noi può avere idee diverse su cosa fare, non cosa non fare. Così. Ma non porca la gran puttana, così. Ma un barista di Milano, un fornitore, un commerciante del Piemonte, delle regioni che sono più a rischio, lo potranno sapere se domani mattina aprono, oppure bisogna aspettare i comodi del signor Conte, del signor Speranza, anche di Fontana, eccetera eccetera. Porca la gran puttana. Ecco, appunto, di tutti i livelli, sì, istituzionali. Ma il governo ha i poteri speciali, appunto. Che cazzo ci fai con i poteri speciali? Ma quindi, scusami, a te Davide, se il governo Davide, il fatto dice che siano tutti dei coglioni, il fatto no, che siano tutti dei non coglioni, salva nessuno, consola, però scusa, dice, non salva, no, calmatevi, anche gli altri. Non salva nessuno, ma se questi dividono l'Italia in tre zone, ah, e quelli Italia, dentro le, no, e quelli dentro le zone, Gallia? No, e quelli Gallia dentro Gallia e Stornes divisa in pa, ma se invece quelli stress, esatto, se quelli che invece sono nella zona rossa governati da Fontana dicono no, noi non vogliamo chiudere, senti lo scendiletto, lo scendiletto del governo, lo scontro è evidente. Vabbè, che sta anche là, no? Ma per favore. Intanto ragazzi, la capua imperversa con le sue banalità. È arrivato dalla il temporale Florida, del Covid. Da Miami, senti, dalla senti, Florida, dal villone in Florida. Sì. Ma perché avete l'invidia del villone? Della... Senti, no, il villone, non lo so se c'è il villone. Non frega niente. Beh, è arrivato il temporale, lo avevamo detto che sarebbe arrivato, è arrivato da noi così come è arrivato nel resto d'Europa. E, insomma, vorrei ricordare che siamo in mezzo ad una pandemia. Sti cazzi, non me la ricordo, sai capo, non... grazie ma capo scusa, che ma... me l'hai detto. No, non ma mi l'avete ero negato di in un mare di merda. Ma lo negavate fino a ieri. Pensavo fosse cioccolata. Ma come? Ma dicevate ma che non c'era il pericolo fino a ieri, avete detto che non c'era l'ondata. Avete detto che non c'è la seconda ondata. Con i comportamenti virtuosi terremo tutto sotto controllo. Senti pure questa cosa. Ma dobbiamo reggere, quindi io credo che i numeri parlino chiaro e certo, credo che questa purtroppo ascia della seconda ondata sia arrivata e quindi diciamo con i comportamenti virtuosi si riuscirà a tenerla sotto controllo. I comportamenti virtuosi, sì, certo. Ma li avete negati? No, ma fino a ieri li avete negati? Avete detto che non c'era la seconda ondata? Ma chi l'ha detto? Sì, ma tu, voi, fino a ieri dicevate ma quale seconda ondata? Come? Cruciani l'ha detto. Ma quando mai? Sgarbi. Ma come? Fallo risentire. Giù. Non c'era la seconda. Giù. Sgarbi, usano le mascherine per dare un messaggio. Non solo è cattiva educazione parlare con il volto coperto, non farsi riconoscere e tenere la bocca coperta, ragazzi, è cattiva educazione. Ma uno dice d'accordo, cattiva educazione è inevitabile quando c'è la salute. Ma quale salute? Quale salute? Il collega Verini ha detto io porto la mascherina per dare un messaggio. Un messaggio. E tu devi dare un messaggio perché non lo capisco da solo? che devo portare la mascherina anche a letto? Come dice Prediasco, non devo avere rapporti sessuali perché altrimenti rischio di contagiare la persona che è già con me. E dunque io porto la mascherina per dare un messaggio? Ma che messaggio devo dare? Un messaggio irragionevole? Un messaggio di non funzionamento del cervello? Il messaggio di chi cammina in un deserto con la mascherina? Di chi cammina in un bosco da solo con la mascherina? Di chi guida l'automobile da solo con la mascherina? Quello non è un messaggio, quello è disordine mentale. Che non è la salute che va difesa a costo della libertà, rinunciando alla libertà con le mascherine e con le finzioni e con i messaggi, dicendo cose false, cercando di persuadere le persone a fare cose irragionevoli, per intimidirli, per indebolirli, per governarli. È una cosa tipicamente criminale, nel senso dell'autoritarismo contro la libertà. Non è la salute che va difesa a costo della libertà, è la libertà che va difesa a costo della salute. Un gigante, un gigante. Igor e la Vergine, dov'è? La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire, chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Oh, ma vi siete tutti rincoglioniti! Due giorni di fila col podcast che dura un'ora! Ma siete stronzi o siete stronzi? Nel 2020 ancora non riuscire a caricare le cose giuste su Spotify, io non ci voglio credere. Che manica di beoti ignoranti che siete. A stronzi, oltre il danno la beffa mo, eh. Ieri 60 minuti dei podcast e come cazzo finisce Igor e la Vergine? Ditemelo. Ancora il podcast di un'ora tagliato, ma mortacci vostro, ma con tutti i soldi che guadagnate e fate guadagnare a Radio 24, ma vi rendete conto che cioè, è una roba incredibile? Paresto! No comment, io mando solo i messaggi, non commento perché ho già commentato troppo questa roba vergognosa che è successa, no, una roba incredibile. Lascio ma non volete parlare di Trump e Biden? Ma zero, tu, ancora non c'è la vittoria, ancora non c'è la vittoria. Di che parliamo? Il presidente aveva già detto ho vinto quando ancora non era finito lo scrutinio, Trump, incredibile. È una frode, abbiamo Trump, vinto. Senti questa qua. Come Lukashenko. I coglioni, che Lukashenko c'è la dittatura, lì c'è la democrazia, si vota. Appunto, non dire cazzate. Ragione, voglio che un leader democratico Ma tu vuoi tutti uguali, tutti speranza. Tutti Conte, c'è qualcuno di diverso. No, c'è un pazzo erotomane, un po' strano, ecco, che faceva ecco, anche che dell'uomo di spettacolo. Ma non fa saltare nessuna regola, che vince l'altro. Che non dice cazzate. No, ma scusa, hanno provato a metterlo sotto inchiesta 40 volte. Gli hanno, è sempre ma stato. Ma lui ci ha provato a dire di aver vinto lui. Ma che ha provato, ma non dire cazzate. A dire ho vinto io. Più caro Parenzo, Trump non ha mai scritto libro durante la pandemia. Peraltro, Trump, vabbè, questo a differenza di Speranza, ha scritto libri. Se dovessi scegliere essere governato da Speranza o da Trump, ma mi stendo a pelle di leopardo, cioè a pelle di leopardo davanti al trono di Trump, capito? Fauci, ma chi se ne frega Fauci. Di Fauci? Ma chi cazzo ma è? Di cosa ti frega? Ma non ho capito. Senti Trump stanotte. Tu hai sostenuto fino a ieri che la seconda ondata non c'era. Non ho mai detto, Manda l'audio. Trova tu l'audio. Cioè, trovalo. Io lo chiedo. Guarda, hai sostenuto fino a ieri la seconda ondata. Non esiste. Ma gli ascoltatori lo sanno. L'hanno sentito. Prendevi in giro me perché ti dicevo arriva la seconda ondata. Ma cioè, non... Hai preso per il culo le persone per giorni. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. girata su. Purtroppo, purtroppo, ho vinto. Purtroppo, purtroppo non andrà così. Purtroppo ha non andrà cagato così. Un po' fuori dal vaso, diciamo. Sì, sì. Purtroppo non andrà uno così. Si aspetta Melania. Queste dichiarazioni da per Melania. Allora, a me ieri, per Melania, allora, ieri Salvini è tornato a parlare della idrossiclorochina. Subito una polemica con Burioni. Cioè, ci sono delle cure che non sono state utilizzate. L'idrossiclorochina. Gli italiani hanno fatto giapponese. Molto. Te lo ricordi il farmaco? Ma non giapponese. È la stessa cosa. Quando i politici fanno Lavigan. Le marchette a farmaci che, di cui non conoscono l'effetto, Il tipo Lavigan, che è l'anagramma di vagina, eppure l'hanno sperimentato. Lavigan. Perché il problema in questo momento è non intasare gli ospedali. Si possono curare e guarire i pazienti a casa coi primi sintomi? Sì. Ci sono farmaci costosissimi e introvabili? No. Io non faccio pubblicità e non mi interessa perché non mi danno una lira. C'è il Plaquenil, c'è l'idrossiclorochina che costa come 6 Trump, o 7 euro, disponibile in farmacia, stesso che ha salvato migliaia di vite ai pazienti coi primi sintomi a cui i medici l'hanno somministrata nei mesi scorsi? Sì. Uguale. No, posso dirti che Salvini fosse è come medico, Trump. Non come Trump. A parte che Trump medico. È stato guarito con altri medicinali molto quando più potenti. Quando disse usiamo l'ammoniaca, con altri cos'è che disse con all'epoca? Altri sistemi. Cos'è che disse usate l'ammoniaca? Disse. Cosa disse? No, non era l'ammoniaca. Cosa disse? Sì, comunque ragazzi era l'ammoniaca, ma io non lo sto difendendo, per me è una cazzata, per me disse usate il capo della nazione. Però ti do una notizia, in Veneto useranno o vorrebbero usare anche i veterinari. Quella è buona, quella ha fatto bene Zaia, quella è una bella idea, quella ha fatto bene Zaia. Perché hai da contestare questa cosa di Zaia? Ha fatto benissimo, questo è giusto. Io Zaia non posso contestare, io Zaia in Veneto non scusa ma che cazzo, perché un veterinario non può fare un tampone? Non ho capito. Zaia ha ragione. Zaia ha sempre ragione. Ha ragione quando diceva che il virus è spompato. No, ma scusa, c'è una differenza però. Ma ha sostenuto che il virus era spompato, no, e quindi ma, era artificiale. Ma sui ha sostenuto ha che abbiamo visto tutti i cinesi mangiare i topi vivi, e adesso avrà ragione anche a mandarmi dal veterinario che dopo aver infilato un braccio nel culo della vacca per farla ma sgravare, con lo stesso braccio poi mi fa il tampone a me prima di castrare il cane. Giordano, la prossima volta la candeggina, diceva Trump, lo porto dal mio medico, comunque curante, la porto il gatto a far castrare. Candeggina era, grazie allora, Giordano, Roberto, Giordano, le immagini esclusive del tunisino sgozzatore, senti. Siamo sotto attacco, emergenza terrorismo, emergenza e immigrazione. Vi mostreremo delle immagini esclusive del tunisino sgozzatore, il tagliagole, quello di Nizza, che è passato per l'Italia. Abbiamo delle immagini esclusive a Bari, dove se ne va via tranquillamente. Esclusive. Elenco degli ospiti, vogliono metterci il bavaglio. Ma quale bavaglio, Mario? Però non c'è nessun bavaglio, cioè, perché l'ordine dei giornalisti ha fatto una procedura contro per la cosa di Feltri su Meridionali. Non c'è nessun bavaglio, dai su. Naturalmente tanti ospiti, Giorgia Meloni, Vittorio Feltri, Vittorio Sgarbi, cosa sta facendo Orietta Berti, Silvio Garattini, Nicola Porro, tanti altri, insomma, ci vogliono Orietta mettere Berti perché? Il bavaglio. Tanti, anche l'ordine dei giornalisti, ve lo racconto da poco, vuole mettermi il bavaglio, ma non ci riescono. Ma perché Orietta Berti? Ma che cazzo ne so, è l'unica di vuole. Sinistra lì in mezzo, è l'unica. Matteo da Varese, veloci ragazzi, per Matteo mettere una di sinistra. Matteo da Varese. Berti. Io sono una partita IVA che da domani mi sa che si chiude e non si riapre più. Che tipo di partita IVA è? Non ho capito. Ho una camiceria, in effetti ne approfitto perché vorrei inviare una camicia a Davide che lo stimolo almeno. Ma io molto. La pago, non è che me la devi inviare. Io ho un sito internet, lavecchiacamiceria.it. Ma non facciamo le marchette qua. È una marchetta, ci sta, dai, il periodo è questo, ne approfitto. No, perché dovresti chiudere? Non ho capito. Perché io sono in provincia di Varese, Lombardia, zona rossa. È arrivata la comunicazione che da domani fino all'ultima settimana di novembre. Quando è arrivata sta comunicazione, scusa? Mi è arrivata un quarto d'ora, 20 minuti fa. È nel decreto, c'è nel decreto. Ma non si sa ancora. Cioè, come no? Sì, c'è nel decreto. Ma non si sa se è zona rossa la Lombardia, non si sa. Beh, cioè, adesso c'è la querel con Fontana che lui dice che non vuole farla zona allora rossa. Che dici? Cosa che io comunque colpevolizzo la regione Lombardia e non lo Stato, Vabbè, ma sti cazzi quello che colpevolizzi tu, cioè, no, non, per dirti, tu stai per dirti. Chiudere l'attività e sei contento di chiudere l'attività, pensa a te. No, sono chiuso perché io se la chiudo non mangio, tra virgolette. E allora invece chiuderai, questo è il punto. Chiuderò perché la regione non è stata in grado di garantirmi. Flavia da Treviso, dai, Flavia da Treviso. Dimmi. Oh, finalmente. Dimmi, Flavia. Ciao Giuseppe. Allora, intanto Parenzo, digli che impari ad ascoltare non solo Salvini, ma anche un medico Trump, che si chiama Cavanna, sì. Coglione, stai zitto, Cavanna, di che parla, è da scusi, marzo, di lei. Che va in giro, di stai te, zitto, sono padovana come te, vabbè, che allora, va in giro allora, da fine, marzo allora? A casa dei pazienti, prima che si aggravino, e li ha curati con l'idrossiclorochina. Bene, sicuri con quella? È usato per 20 anni. La usi allora? Per l'artrite reumatoide. Ma la usi? Ma la usi anche per pulirsi il culo, se le piace, signora? Ma che me ne frega a me? Se lei pensa che funzioni, lo usi. Chi se ne frega, lo usi. Cara Flavia, se le piace, lo usi e si pulisca il culo anche se le va bene. Così non le viene il COVID. Somara ad una somara. Lo usi. Torniamo, Flavia, ti chiamo dopo. Fermi un attimo. Allora, Flavia sta dicendo che c'è un signore che si chiama Cavanna, è vero, che va girando in Italia e in altri posti, che usa l'idrossiclorochina. Vabbè, viva. Allora, Flavia, però metti bene il telefono, dopo ti richiamo. Flavia, dove sei? Flavia, scusami. Metti bene il telefono, cazzo, dopo ti richiamo. Ferma là. Ma col il telefono se tenere questa. La Zanzara. Faggiù, se vuoi parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se vuoi mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Allora, io stacco da lavoro alle 10:30 di sera qui in Germania, mi collego alla rete wifi aziendale per scaricare la puntata Zanzara ad ascoltare poi in macchina mentre torno a casa, e per il secondo giorno di fila vedo che la puntata dura 60 minuti. Allora dico, cani e porci riescono a fare i podcast su Spotify, bambini di 14 anni caricano le loro puntate di podcast senza problemi e la Confindustria non riesce a caricare una puntata per intero. Ma come siete messi? E ancora una volta su Spotify la puntata tagliata che dura un'ora e non si capisce bene quando cazzo la tagliano sta puntata, ma veramente, ma prendetela, pedate sui coglioni quell'imbecille che deve montare il podcast, eh? Mi raccomando. Un'arena politica in continua evoluzione trasformata dalla comunicazione social, ce la racconta Daniele Capezzone nel suo ultimo libro Laicrazia, lo ha intervistato Lisa Marzoli. Siamo tutti dentro un immenso talent show in una chiassosa e permanente diretta multimediale. Sotto la lente d'ingrandimento anche il sistema dell'informazione mondiale che spesso non ha saputo prevedere esiti elettorali come le presidenziali vinte da Trump e la vittoria di Boris Johnson. Molto spesso, lo dico con grande rispetto, vale per i politici mainstream, vale per i giornalisti mainstream, sono chiusi in una bolla in cui raccontano ai cittadini non quello che accade ma quello che loro vorrebbero e preferirebbero. Questo era Capezzone intervistato dal TG2 sul libro. Perché non intervistano me? Perché non intervistano me? Intervistano il come signor mai? Capezzone. Uno, per dire ste stronzate, peraltro, anche possiamo dirlo. Ma che c'entra? Quello è un altro discorso. No, anche quello. Perché? Lutwak in Svezia la mortalità è meno della Spagna. Grande Lutwak, sempre all'assalto, sempre in nome della libertà, avanti tutta. Ma la libertà di morire, avanti di anche, contagiarsi. Anche sì, di morire, sì, anche. Di morire meno nel caso della Svezia. Vai. Che non hanno chiuso le scuole come la Svezia, che infatti, non ha chiuso la scuola. Torno indietro adesso, ha avuto una mortalità non differente della media, meno della Spagna, credo, più del Belgio. Meno di questo. Poi a un certo punto Lutwak che ieri ha detto Biden stava scegliendo alla vicepresidenza una negra, sta dicendo, una negra. Senti. Biden, sì? Che tutta Washington, incluso io, conosciamo da 40 anni, sì? Biden conservatore, formato conservatore cattolico, totale. Poi lui prende la vicepresidente. Prima dice devo prendere una negra, eccetera, eccetera. Poi tira fuori Kamala Harris, che è un Brahmin, la madre aristocratica. Vale Brahmina, sì. Poi Feltri, gli anziani devono essere liberi di morire come vogliono, gli anziani. giusto questo. I vecchi vogliono fare quello che vogliono, sono cittadini italiani, godono delle libertà garantite dalla Costituzione, per cui è inutile che qualche fesso adesso li voglia recludere. I vecchi fanno quello che vogliono, possono anche sfidare la morte, possono anche sfidare il Covid, sono affari loro. Io non riesco a capire per quale motivo si continui a parlare degli anziani. E poi va all'attacco: tutti i terroristi sono islamici. Arrivano su, per forza sui balconi, altrimenti vengono in motoscafo, ma questo non mi risulta. Poi è verissimo che non tutti gli islamici sono terroristi, ma tutti i terroristi sono islamici. Allora, eravamo con Flavia da Treviso che attaccava Parenzo a sprombattuto sulla storia dell'idrossiclorochina, giusto Flavia? Assolutamente. Certo. Assolutamente. Allora io adesso non voglio parlare con Parenzo. Sì, neanch'io con lei, guardi. Neanch'io. Non parlo. Voglio parlare uguale. Con Giuseppe. Esatto. Come va l'attacco? Come morda le caviglie, Flavia? È una Loris giovane praticamente. Perché io mi sono 53 anni. E allora sono 30 anni, meno della anni che lavoro e mi faccio meno un come patto così. Ho sempre lavorato. Sempre lavorato. Sempre lavorato. Via con le bestialità adesso, forza. A 16 anni. Via con le bestialità ora. Il mio papà era malato, sì. E poi è morto. E tutti abbiamo alla lavorato sanità da sempre. E mia mamma è morta di infezione ospedaliera. Punto a capo. Che sfiga. Allora, l'idrossiclorochina. Ci sono dei medici che hanno nomi e cognomi che la usano da marzo. Si sono rimboccati le maniche, allora? Si sono messi le protezioni a spese loro, perché lo Stato questo? Non le dava, e hanno curato. Significa che magari ci sono dei medicinali che funzionano, punto e basta, vuole dire Flavia. Anche un decesso. Siccome diventa una questione politica e a me della politica non me ne fotte un cazzo, sì, perché tu hai nominato l'uso Salvini, di un farmaco. A me di Salvini non certo, me ne frega ma niente. No, è lui che ha trasformato un farmaco, ha fatto un uso politico delle idrossiclorichina. A me mi interessa. Cioè tu stai dicendo che funzioni, vediamo se tu funziona. Tu stai dicendo che l'hanno bloccato apposta per motivi politici, per favorire certo. altre cose, per sai drammatizzare la situazione. Sai quanto costa una scatola di idrossiclorochina? Sì, che il nome euro, è Plaquenil? Pochissimo. 6 euro. Sai quante compresse? Ci sono 30. E allora, ma secondo lei non vogliono curare le persone? Secondo certo, lei non vogliono certo, curare le persone? Certo. Quindi lo Stato I non vuole curare le persone? Facendo. Davide, su questa nostra conterranea, scusi signora sì. Veneta, Flavia da Treviso, allora va fatto un sondaggio, però lei la va profilata. Lei dove si informa, a parte la Zanzara, sì, quali altre trasmissioni vede in televisione? Quali altre trasmissioni? Del Debbio, allora, io mi informo direttamente dai medici, che le posso dire anche in dalla rete, attraverso il web, Facebook. Li chiama in ambulatorio? Li chiama ma ambulatorio, qual è il punto? Non ho tutti. Capito. Lei pensa che l'idrossiclorochina funzioni? Punto e basta. Certo. Dai, su, sì, cioè. Ma, non è che penso, ma, è la verità. E ce la vogliono nascondere? Ce la vogliono nascondere questa verità. Certo. Ma lei fuori dal coro, il programma di esatto, Maria Giordano, esatto. lo guarda? Sicuro. Guarda. Certo sicuro. Che l'ho guardato. Infatti, benissimo. Infatti, non ho altre domande. Infatti, il dottor Camanna, Libero Giornale, lei lo legge? Lo legge Libero Giornale? Il dottor Camanna, lei lo ha visto ieri che parlava? Lo ha visto ieri Giordano, che parlava da Mario Giordano, sì, certo. L'ha visto? Sì, ciao, sì, Flavia. È un ebete, ciao, Flavia. Ebete, ciao, ciao, eccolo, eccolo. Ciao, ciao. Allora, intanto le misure sono talmente però, urgenti. Giuseppe, le misure. Ascolta la Zanzara e guarda Mario Giordano. Le misure sono talmente urgenti che slittano a venerdì. Dico, le misure sono talmente urgenti. Ci sono morti per le strade. Per permettere di adeguarsi sì. alle non regioni. Ci sono i morti per le strade. Per non ci sono alle i morti regioni per le di adeguarsi, punto. È per quello che possono chiacchierare questi. Perché non ci sono i morti per le strade. Per fortuna ragazzi. Ancora no, è perché l'accesso agli ospedali c'è per tutti per è ora. È la Dolce. Migliore dimostrazione che non ci sono i morti per perché strada, le persone vanno in ospedale. Grave. Perché le persone ancora ci sono posti Pietro, in ospedale. Pietro, provincia certo. di Taranto, vai. Pietro, provincia di Taranto. Non ci sarebbero comunque i morti per le strade, Davide. Non diciamo cazzate, questo non è la peste dubbio. Nera, dai. Forza. È successo a Bergamo. Pietro, però. Provincia di Taranto, dai. Pietro, a Bergamo è successo, ma ve lo siete già sì. dimenticato. Pietro, provincia morivano di Taranto, dai. Gli ottantenni morivano negli ospedali. No, non arrivavano neanche in ospedale, se ve lo ricordate. Fammi sentire Pietro. Non arrivavano in ospedale. Ma che c'entra non arrivavano. Adesso? Pietro, dimmi. C'entra perché avete detto che non c'è il pericolo. Sì, quindi. Pietro, dimmi. All'epoca c'era ospedali pieni, la gente non arrivava all'ospedale. E ne parli con nostalgia, ne parli con nostalgia. No, purtroppo sembra con un dato di fatto. Quando la gente muore. Ma tutt'altro. Godi è esattamente il contrario. Pietro, esattamente dimmi. Il contrario. Dimmi, Pietro. Pietro, buonasera, dimmi. Sono Pietro da Taranto. Senta, sono proprietario di un bar Tabacchi sì, e purtroppo stiamo vivendo una situazione curiosissima, cioè a tutt'oggi, a sì. meno che non sia come avete già detto voi, non sappiamo se domani dobbiamo aprire. Domani sì, aprire. Fino a venerdì. Se lei è nella zona rossa, ma Bari non mi sembra sia dunque. Pensa te se l'Italia deve essere appesa alla zona sì. verde, la zona arancione, la zona rossa. Scusami, piuttosto sì. che fare un lockdown in tutta Italia. Ma io non ho capito cosa volete voi. Non riesco a capire. Niente. Hanno diviso l'Italia in base al pericolo. Giù, Pietro, dimmi, dai. Allora, ma si rende conto il Presidente del Consiglio che noi non sappiamo ancora come dobbiamo organizzarci? Se cioè domani dobbiamo aprire, dobbiamo far venire i pasticceri. Hai ragione. Barman, eccetera, domani, eccetera. Domani puoi aprire perché ancora non c'è il provvedimento. Venerdì, domani, stasera Conte parla e domani vedremo. Venerdì entra in vigore. Ma lo sappiamo, dai. Che lascia un sospeso tutti questi lavoratori, i colleghi miei, eccetera. Non mi sembra un modo... ortodosso. È una vergogna, no? è una vergogna. Pietro, Parenzo, Pietro, probabilmente, Pietro, di fare sono tardo. Pietro, ciao. Pietro, ciao. Sai cosa succederà, Pietro? Succederà che tu hai un bar tabacchi, potrai tenere aperto il tabacchi ma chiudere il bar, potrai dare le sigarette ma non potrai dare il caffè, ti pare una cosa normale? Lo puoi fare a domicilio il caffè. Ma assolutamente, io posso fare una proposta a tal proposito? Sì. Puoi fare la consegna a domicilio. Per esempio, perché non si è pensato di esporre la superficie del locale in metri quadri e stabilire un parametro? Pier per da Milano, mi hai rotti i coglioni. Pier da Milano, vai, Pier. Dimmi, pronto? Pier. Dimmi, Pier. Pronto, dimmi. Cruciani. Dimmi. Ascolta, io volevo dirti, guarda, grazie alla mia laurea in farmacia ho fatto uno studio che spiega il perché il virus colpisce in modo asintomatico altri e altri no. È arrivato il genio. Te lo dico io, non è l'idrossiclorochino, non è il è facendosi leccare il buco del culo. Sì, ma c'è un motivo, bravo. Sì, nuovo studio. Sì, sicuramente la stimolazione delle endorfine, sì. magari. La stimolazione del modo più sublime delle endorfine. Sì, l'endorfine, c'è cioè più scopi, sostanzialmente ragazzi. più fai sesso, qualcuno l'ha detto, più fai sesso. Sesso sì, ma farsi leccare il buco del culo è fondamentale. Ma non dire cazzate, Pierre. Non dire cazzate. È abbastanza condivisibile questa cosa. Questo vuol dire farsi leccare il buco del culo è una cosa buona, giusta, certo. nostro dovere, fonte di salvezza, quello è sicuro. Chiaro, anche cioè, questo è matematico. Fonte che di possa portare fonte di salvezza sicuro da qualsiasi cosa, però non credo che ci salvi dal Covid. Posso dirti una cosa, caro Pierre, non credo che ci salvi dal Covid. Posso dirti. Cioè, a me è una pratica che piace. A me è una pratica che piace farmi leccare il buco del culo. Io per non rischiare tutti i giorni mi faccio del bel rimming, praticare. Ma hai una compagna fissa oppure te lo fai praticare in giro? Ho una compagna fissa, o delle volte venivo in via in Monte Rosa, dato che io abito in Piazza delle Lotte. Cioè, dove c'erano puoi delle andare dove vuoi, da una prostituta io non me lo farei leccare, cioè da un effettivamente rischioso. Una prostituta che perché uno si dovrebbe far leccare il buco del culo da una prostituta? Rosa, sono sparite, effettivamente sono sparite. Comunque sono sparite, io non credo che quella pratica lì porti a un miglioramento dal punto di vista della difesa immunitaria dal Covid. Credo che non sia così. Poi porta grande beneficio ed è una pratica che a me piace moltissimo, per esempio, cioè non so te Gottardo come sei messo da questo punto di vista? Sì, assolutamente, guarda, mi sono depilato apposta. Come si sanno, non intervengo su Parenzo, queste materie. Credo che non ci sia mai fatto leccare il buco del culo in vita sua. Se volete vi do un commento sulle elezioni americane. No, credo che Parenzo non se lo sia mai fatto leccare. Credo, dalle mie conoscenze non credo. Preferisce leccare culi potenti. No, quello neanche. Fermi. La Zanzara. Electricity. When you walk in, you suck my circuitry. Back it up with attitude. When people sweat it out, you always play it cool. I think I know you. I'm gonna bet that you like Super Chunk and don't get. Get your quick fix in my car. You got a sweet tooth and I'm your chocolate bar. Volevo lanciare un appello agli integralisti musulmani, a questi cosiddetti terroristi. Cioè, basta andare in giro a ammazzare la gente, non fa più effetto. In questo momento c'è il Covid, cioè le persone sono orientate su altre cose. È inutile che andate in giro a ammazzare la gente per avere un po' di visibilità. Avete un po' di visibilità, ma dura 2 o 3 giorni, poi dopo non vi caga più nessuno. Qui si parla di Covid, allora volete avere visibilità? Andate in giro senza la mascherina, va bene. Avete, non so, un kebab? Ecco, fate somministrazione ai tavoli dopo le 18, così almeno vi fate notare, cazzo. Basta andare in giro a ammazzare la gente, non fa più effetto. Ma sai perché te lo dico, Giuseppe? Perché stamattina non ce n'è uno che parla di quello che è successo a Vienna. Parlano tutti del Covid, delle restrizioni, degli orari, delle zone rosse. Poi gli dici, ma hai visto cosa è successo a Vienna? Ah sì sì, ho visto, c'era quello là in giro col fucile che sparava. Vabbè, ma stasera chiudono secondo te o tengono aperto? Cioè alla fine la gente adesso in questo momento, il cervello è orientato solo su una cosa, su salvarsi il culo per non chiudere la propria attività. Allora ragazzi, vi presento un personaggio adesso che si chiama Moratti di cognome, ma non ha nulla a che fare con... ma perché non parlate Moratti, più di Trump? Cosa? Perché di Biden? Perché di dobbiamo parlare di Trump? Ancora c'era non è sicuro nulla. Ancora non c'è niente di sicuro. Di Trump e ora no, improvvisamente non c'era nessuna eccitazione. L'unico eccitato sei tu. Eri eccitatissimo. No, io non sono mai stato eccitato. Ho detto se succede, infatti non è successo. E adesso non ne parli più. E perché non ne parlo più? Ancora ci deve essere. Appena ci sarà la vittoria proclamata, la vittoria di Biden, ne parleremo. Ci siamo molto vicini. Ci siamo molto vicini. Vediamo, ma non ne parli più ormai. Ma cosa devo parlare? Come cosa devo parlare? Non ne parli più? Perché? Cosa... Perché? Senti questa Moratti, senti questa Moratti. Baby, I got a question. Diciamo che la scienza è un qualcosa che deve essere serio, ma soprattutto verificabile empiricamente. Allora? Quindi io sono un po' stufa di queste teorie dei virus che si tramandano nello sputo, insomma, tutte queste E come si dovrebbero trasmettere? Fantasia. Senti, senti, l'ipnosi di massa del nuovo ordine mondiale. Oh, però. Allora, prendiamo un caso concreto, l'Argentina. L'Argentina, nonostante sia il paese da più giorni in lockdown, è considerato il paese più colpito, nel senso che ci sono molte persone che manifestano dei sintomi, tra cui anche le polmoniti interstiziali. Allora, per comprendere tutto quello che questo ordine mondiale che sta per crollare sta combinando, dobbiamo andare a capire che c'è una grande manipolazione di massa e una grande ipnosi di massa. Perché? Perché loro stanno agendo sulla paura più primordiale dell'uomo, che è quella di morire. Siamo al risveglio di massa. Quindi di fronte alla paura di morire le persone entrano in uno stato ipnotico, per cui credono anche alle più atroci assurdità. Ma io dico credevano perché in realtà sta avvenendo un grandissimo risveglio di massa. Questo è veramente un momento importante e catartico e benedetto nella storia dell'umanità. Dove c'è psicosi di massa ci sono più casi. Senti. Semplicemente dove si verifica una psicosi di massa si verificano anche più sintomi fisici, tra cui uno di questi a livello di sentito biologico può essere la polmonite interstiziale. Federico, provincia di Treviso, avanti tutta, vai. Crucio. Dimmi. Niente, volevo commentare la disonestà intellettuale di Parenzo. Sì, che sì. È qualcosa di schifoso a volte. Sì. Nella puntata. Buonasera, Parenzo. Grazie. Nella puntata di qualche giorno fa, sì, che avevate in collegamento Oliviero Toscani, sì, stavate parlando del fatto se fosse colpo o no dell'Italia sul discorso attentato a Nizza, no? Vabbè, allora? C'è il passaggio a Lampedusa, lo sbarco, eccetera, esatto. Allora? E Parenzo aveva detto che a un certo punto che in pratica se, diciamo, su 100.000 che arrivano con i barconi c'è un solo criminale, la cosa è normale, no? Perché anche in Italia su 100.000 statisticamente se ne arrivano tanti, come dite voi, dovrebbe esserci un crimine al giorno. Per fortuna non è così. Ecco, quindi Parenzo, un criminale come quello è uno, ma poteva venire dalla Libia, ma intanto è venuto da lì, col barcone. Dai, forza, dimmi Federico, dimmi. Parenzo paragona il tunisino medio all'italiano medio, cioè per Parenzo in un barcone di clandestini c'è la stessa probabilità di trovare un criminale prendiamo 100.000 italiani. Non penso che 100.000 tunisini siano 100.000 terroristi, questo sicuramente no. Matteo da Roma, Matteo da Roma. Vai, è un idiota, dimmi. Chi lo pensa. Matteo, dimmi. Dimmi Matteo, dimmi Matteo, dimmi. Ciao Cruciani, senti, io ho sentito soltanto l'inizio della trasmissione e mi è bastato e mi è avanzato veramente. Sti cazzi, tanto, lo so, sti cazzi, mi ascolto da anni, nonostante di agire, allora... mi piace un sacco. Però tu continui a rompere il cazzo, continuate a rompere il cazzo per Gottardo con sta cosa del coronavirus. In che senso? Ancora a sottovalutare, io veramente vorrei lottare con Parenzo. No, moriremo tutti, Matteo, moriremo tutti. Stai tappato in casa fino a giugno. Stai tappato a casa fino a giugno, non scopare, ma nessuno sta vivere più, non respirare. Calma. Ma nessuno sta tappato. Lo sai che io forse ci dovrò stare, perché in famiglia un mio parente stretto, se ci prende il Covid per le malattie che c'ha, crepa. Certo. Ok? Crepa, quindi non posso andare all'università. Stai dentro casa, fai la didattica a distanza. Lo faccio, ma tu che dici, okay. Sgarbi è un grande, che Sgarbi spara cazzate dalla mattina alla sera. Sgarbi sta facendo una battaglia di libertà anche per te. Continua a estrapolare la libertà, dal suo significato, Gottardo, la libertà non ha questo significato. È quella di morire di paura invece che di Covid? Dobbiamo morire di fame perché bisogna chiudere tutto. Ma nessuno ha paura, non c'è paura. Io personalmente non ho paura. Io vado a lavorare tutti i giorni, dov'è che ho paura? Rischi di morire di paura, caro amico da Roma. Rischi di morire di paura. Questo paese morirà di fame. Morirà sono di fame che questo sono, paese. Sono sicuro e che tu sono che sei morte giovane, più persone di Covid che di paura. Guarda, alla fine vedremo la crisi economica che avrà scatenato questo secondo lockdown. Quanti suicidi ci saranno? Quante aziende chiuderanno? Quanti padri di famiglia si ammazzeranno perché non hanno più i soldi per pagare le bollette? E poi facciamo i conti nella fascia under 80 quanta gente muore di disperazione. Quanta gente muore di disperazione e quanta gente muore di Covid. Ciao Matteo, ciao. Gianluca da Varese, avanti tutta, grande filo diretto, vai Gianluca da Varese, come si diceva una volta, col paese reale. Gianluca da Varese che lavora lì giù come i pompieri di lì giù. Allora dimmi, ragazzi, Gianluca. Ragazzi, oggi ho fatto il 21° giorno di positività. La TS mi ha fatto uscire. Sì. Oggi ho lavorato. Domani, come si dice, si lavora, per modo di dire. Oggi ho avuto tempo di pagare l'INPS 900 euro, la rata del mutuo dell'ufficio e dal 10 di agosto l'istanza del fondo perduto, che sono 1200 e qualcosa euro, che non arrivano. Mia moglie in cassa integrazione parrucchiera e sessista, da giugno che non prende la cassa integrazione. No, ma arrivano i ristori. Conte ti ha detto che arrivano i ristori. No, non ho capito. Dunque tu hai fatto la quarantena per quale motivo? Allora, mio suocero è risultato positivo. Io non l'ho mai visto. Mia figlia era stata qualche giorno prima che lui avesse dei sintomi. Io, per puro scrupolo, mi sono fatto il tampone, che lavoro con mio papà che ha 73 anni, mi dà una mano. Che lavoro. E io sono risultato positivo. Attenzione, a mezzogiorno esito del tampone negativo. Vado a lavorare e dico: papà, vieni in ufficio che sono a posto. La sera alle 7 mi chiamano, c'è un errore positivo, laboratorio privato. Okay. Beh, vabbè, questo però può capitare l'errore. Può capitare, sai quanti errori ci sono stati nei tamponi? Cioè, a non finire. Vabbè, Gianluca, dunque. Allora liberi tutti e via. Qual è la questione? Qual Molto è la questione, semplice. Gianluca? Dimmi. La questione è che io alla fine ho fatto 20 giorni senza lavorare, sono una partita io, una agenzia di pratiche auto, senza stipendio, adesso starò ancora a casa e sto aspettando i soldi, ho pagato l'INPS oggi, 800-900 euro, questa ho è la pagato 241 ragazzi. Euro della di una rata che avevo fatto. Ma arrivano i ristori, arrivano i rimborsi, non ti preoccupare, come ti diceva Parenzo, arrivano i rimborsi. Ma io non sono Conte, ovviamente. Ma curate la gente perché si cura. Mio suocero l'hanno preso per i capelli, ma l'hanno preso, 70 anni, ha fatto il casco, l'hanno preso, si cura. Invece in di parlare, no, non c'è il virus, c'è il virus, il virologo di qua fanno i libri. Cazzo, curate la gente. Ciao, ciao Gianluca, ciao, ciao. Allora ragazzi, oggi mi è arrivato questo messaggio da parte di un ascoltatore della Zanzara. Sentite, messaggio WhatsApp. Cruciani, col nuovo DPCM mio padre tenterà il suicidio. Chiamatelo, vi prego. Allora, insieme, poi c'era un altro messaggio in cui c'era un numero di telefono. Mamma mia. Numero di telefono del padre di questo ascoltatore, che non conosco, non ho mai conosciuto. Sì, buonasera. Salve, buonasera. Mi ha dato il numero suo figlio. Chi cazzo sei tu? Mi ha dato il numero tuo figlio, che ti devo dire? Sei Beppe? Sì, sono Giuseppe, sì. Ah, ciao Beppe, ciao. Come andiamo? Ah, di merda. Cioè? Ma cazzo vuoi che vada? Non si sa ancora un cazzo con questo regime comunista qua? Cioè, che cazzo vuoi farci? Io penso che io non ti ascolto mai perché tu la pensi esattamente come me. Infatti io e mio figlio litighiamo perché lui è il tuo più gran che c'è, ma io non ti ascolto mai perché dico, ma vaffanculo, la pensa come me. Io fatturo 20.000 euro l'anno, sì. Togli le tasse e tutto, dimmi tu come cazzo e non mi fanno andare a lavorare. Ma perché? Cosa fai? Io rappresentante di ABI, ma di una piccola ditta, da sempre, ok? Quindi orfano di tre genitori in tenera età, un appartamento, vivo da solo, ho il mio adorato figlio che è andato a convivere e adesso mi trovo solo come una merda, ok? Non posso neanche andare a trovare gli amici, a quanto pare, perché non si sa un cazzo, perché l'informazione non ti dà un cazzo, non ti dicono niente. Oggi i parrucchieri aprono, non aprono, gli estetisti aprono, non si sa un cazzo con questo regime di merda. Ne ho proprio pieni coglioni, guarda. Tuo figlio mi ha detto che vuoi fare delle cose assurde, però, cioè, non è che hai pensato. Sì, no, mi spendi, sì, ma Beppe, ma tanto che cazzo ci faccio alzare sto mondo? Per la tua famiglia? Non so, Beppe, ma non c'ho famiglia, solo mio figlio. Se non lo faccio, non lo faccio per lui, Cioè, se non ti ammazzi è per lui? Sì, sinceramente, Beppe. Sinceramente, se no che cazzo faccio? Cioè, cosa stai qua? A servire il regime per cosa? Quanti anni hai? Lunedì faccio 55 anni, sono solo io e io, ok? Ecco. Ma io non ho capito perché non puoi andare a lavorare. Scusa, tu sei rappresentante di una ditta, ma che ha. Perché chiudono i negozi? Perché chiudono i negozi? Hanno chiuso tre mesi. E poi chi, tra parentesi, saluti che arriveranno, io vado a provvigione, ho preso quest'anno fatturate, perché il nero, spero che la finanza mi ascolti, non si fa un cazzo di nero, che era quello che forse teneva in piedi un po' l'Italia, va bene? Cazzo, adesso nero non se ne fa, ma è giusto che non se ne faccia, è giusto, è giustissimo, però porca puttana, io che fatturo 20.000 euro dall'inizio dell'anno, mettici benzina, autostrade, IVA, INPS, cosa mi è rimasto? Ecco, c'è, io lunedì faccio 55 anni, va bene? Sembro uno oramai di 70, perché ne ho cazzi che non finisce più. Altro che andare a incendiare i cassonetti, figa. No, queste cose non si fa. La violenza no, la violenza no. La cosa che voglio io capire... sono Parenzo e penso che lei non la penserà come me sicuramente, perché sento che ovviamente sono Parenzo. Non so chi cazzo sei veramente, guarda, ma noi siamo proprio allo sbando. Dove abiti tu? Dove abiti? Dove abiti? Io abito a Brescia. Tu abiti a Brescia. Pensa a casa di se fanno sì, l'unica cosa che ho, è l'unica cosa, tre genitori mi sono morti per avere la casa di proprietà, hai capito? Se fanno come la tre. Lombardia zona rossa, lui non può più lavorare, già adesso non lavora. No, poi non potrà più. No. Poi non potrà lavorare. Deve averli subito i soldi dallo Stato, i 600 euro più il fatturato che ha perso. Siamo all'esasperazione. Io adesso vengo via da una cliente poverina in Brescia, ok? Stefania piangeva, mi fa, come faccio a pagare? Come faccio a pagare? Cosa aspettiamo qui? I 600 euro ancora? Ma stiamo scherzando? Io sono dovuto andare, io ho chiesto 4.000, è tutto documentabile, ho chiesto dei soldi in prestito alla banca perché non si riesce a pagare le spese condominiali, ragazzi. Ma tu non hai paura del virus? Il virus non te ne frega un cazzo? Ma che cazzo me ne frega del virus, Beppe? Ma me lo mangio il virus! Ma ascolta, mio figlio è infermiere, è tutto il regime che ci fa diventare così, è tutto il regime. Ma che vuoi dire quando dici regime? Suo figlio non dice che suo figlio non vede il virus, non crede che ci sia il virus. Ascolta, Parenzo, tutti eroi gli infermieri. Se io scelgo di fare il pompiere, se c'è un terremoto, divento un eroe. No, l'ho scelto di fare. Io sono sulle strade. Ma questo certo. E quanti morti di rappresentanti ci sono? Non li caga mai nessuno questo. Beppe, tu che hai potenza, chiesto ho chiesto 1.000 euro a Lena Sarko. Sai cosa mi hanno risposto? Ho fatto due domande per 1.000 euro, davano i primi 8.000, davano, va bene? Io sono risultato 11.000 erotti, le faremo sapere, le faremo. Non mi ha fatto più sapere un cazzo nessuno, più nessuno. Enrico, io ti abbraccio. Ed è la dimostrazione, Enrico, nelle condizioni in cui sta, perché mi ha chiamato il figlio e mi ha detto, lo ripeto, guarda, chiama mio padre perché si vuole ammazzare. Però sono qua in un garage, sono già a casa, un uomo che lavorava 12 ore al giorno. Parenzo, come rispondi a questo qua? Questi sono i danni delle chiusure, sono anche questo. Come rispondi c'è a questo solo qua? Da dargli subito, questi sono anche i danni solo delle da chiusure. Dargli subito i soldi, non c'è, da c'è da aiutarlo bravo, immediatamente. Bravo, ma non solo c'è me, niente, anche i miei amici clienti, Ma ovvio, c'è un intero sistema da sorreggere. Parenzo, io non so che partito sei, perché ti giuro, mio figlio mi non ruba sempre partito il... io. Ma ti faccio un esempio cretino, perché io devo pagare tutte le tasse possibili, il bollo dell'auto, ho una misera tipo, ormai di 5 anni sospeso, quello. Aspetta, sono un cazzo sospeso, da settembre me l'hanno portato a ottobre, è come dire, guarda Cruciani, ti tolgo un coglione, adesso c'è ancora più avanti. Lo tolgo il mese prossimo, e cosa vuol dire, toglimelo subito. Ragazzi, questi sono i danni delle chiusure. Il paese è stremato. Ciao Enrico, mi raccomando, non fare cazzate. Ciao, ti abbraccio. Ciao. Attack, always coming in last, bring it up the bass, no one owes you anything, I think you need a shotgun. Ancora avete dubbi su quali saranno alla fine i danni? Ancora avete dei ma dubbi dove avete sentuto? Nessuno ha dubbi. Su quali saranno alla fine i danni? Ma io non ho mai detto che non c'è una crisi ancora economica enorme. Ancora avete dubbi? Tentativi COVID di suicidio? Per questa gente dai. Qua è più pericoloso il suicidio del COVID. Per no, ma non ho capito. Qua. Io non è che sono e per sono il migliaia, suicidio o per la chiusura migliaia. Totale. Ti dovresti vergognare. Ma io non infatti, vedrai mai forse, quelli della Protezione Civile che diranno ci sono stati mille suicidi oggi. Forse non capite l'italiano. Non lo troverete mai. Io non ho mai sostenuto che le persone devono morire di fame, mai in vita mia. Ho detto semplicemente, quando parli così sembri Marianto Nietta. A differenza di voi che siete due fanatici e che avete detto tutto il loro contrario, cioè, fino a... no, io vorrei che tu rimandassi in onda sinceramente. Ma non c'è dicevi che la seconda è un dato, non esiste. Sai qual è il tuo problema, Davide? Non hai mai la seconda ondata non esiste. Che chi diceva? Non dire cazzate. Che chi si metteva lì a dire ci sarà la seconda ondata non poteva saperlo. Cosa vuol dire? E invece lo sapevano. Ma che vuol dire? E Alessio, non leggevi, di Como, perché sì, dicevi non che non era vero. Quando ti dicevo quando Vespignani, Alessio, gli studiosi, provincia di Como, e tu dai. Dicevi ma chi se ne frega, Alessio. Guarda che loro avevano previsto che ci sarebbe Alessio, stata ma infatti, e tu dicevi chi se ne frega. Dimmi Alessio, dimmi. Prima di tutto perdonami, ma un grande abbraccio Enrico, perché anch'io sono un agente di commercio. E quindi siamo la categoria figli di nessuno, per non dire figli di puttana, allora? Perché è la parola che nessuno si ricorda. Io sono incazzato, Peppe, perché domani ci chiudono, ma nessuno abbiamo saputo poco fa cosa fare. Questi, e concludo il mio pensiero, dovevano preparare il paese alla seconda ondata, cioè? Hanno solamente pensato aumentando i posti in terapia intensiva, sistemando i trasporti pubblici, solamente preoccupati dei decreti Salvini, della legge Pezzana, di quelle puttanate che hanno approvato. Hanno fatto anche i banchi con le rotelle, hanno fatto anche altra bella minchiata. Ti ricordi la follina da Parenzo e da Telese con il banco a rotelle, se la ridevano della grossa? Ma ecco, la follina stava facendo qualcosa. Ma il dramma vero è che facciamo parlare ancora uno come Parenzo. Quello è il dramma. Beh, adesso voglio parlare no, uno come Parenzo. C'è forse sembra, un equivoco. Cioè, il fatto che voi mi appiattiate sulle posizioni del governo è un grave errore. In questo momento. In questo momento, non credo. In questo non sono tra le sue simpatie, credo. Guarda, quello ti sbagli. Ma noi, quello che non avete capito è che in realtà ve la dovreste prendere anche oggi con tutti quei governatori delle regioni di cui ma ognuno chi se ne frega, ma sì, certo, non c'è dubbio ognuno su quello. Ognuno ha fatto il cazzo proprio. Cioè adesso io vorrei sapere, ad esempio, la posizione di De Luca è l'unica che è sempre stata netta. Cioè De Luca è uno che non ha mai cambiato posizione. Ma che c'entra questo? Può piacere adesso? O non piacere? No, per De capire Luca, le misure che sono... De Luca... De Luca cioè non ho capito la vostra posizione. Zitti tutti, Giovanni dalla provincia di Frosinone, dai. Voi navigate in base a quello che sentite. Buonasera. Allora, guardi, io vi devo dire solo una cosa. Spero che queste elezioni americane le vinca Trump. Purtroppo non, almeno... purtroppo non è così, invece, caro amico così. Mio. Sì. Capita. Ok, spero che comunque vinca, almeno bombarda la Cina, la rade al suolo. Bombarda la Cina. Adesso bombardare la Cina, rade al suolo la Cina, ma non perché? Mi sembra... Ma perché dovrebbe sono bombardare la Cina? I principali autori di questa storia sono loro, sbaglio. E poi dove vendi i prodotti però? Bombardare la Cina, fare la guerra alla Cina però non mi sembra francamente una grande idea, una grande idea bombardare la Cina. Qui si parla sempre di razzismo per i neri, islamici e cavoli vari, ma il vero male del pianeta sono proprio l'intero male. Apriamo un nuovo fronte, perfetto, quindi dopo i neri i cinesi, ottimo. L'intero male del pianeta. Eddie da Taranto, vai Eddie, dimmi. Pronto, buongiorno, senta, noi siamo a Taranto. Stiamo tu sei a Taranto, no noi, tu sei a Taranto. Come stai chiamando, col viva voce, con l'auricolare? Come cazzo stai chiamando, Eddie? Normale. Vabbè, allora che vuoi, dimmi. Senti, come che noi stiamo vivendo a ma Taranto? Noi chi? Tu stai vivendo? Io sto vivendo a Taranto e sto vivendo una situazione di merda, tipo pizzeria, bar, pub, discoteche, ristoranti, sono tutti chiusi. Vogliamo sapere una cosa, perché devono stare chiusi i ristoranti e pizzeria? Perché? Dimmi, perché? Perché noi non sappiamo come vive, come dobbiamo mangiare, perché noi andiamo a fare una spesa che è tutto per durare tutta la settimana, ogni mattina noi andiamo a fare una mattina. Noi dalla, ma Eddie, non ho capito, scusami, tu che cos'hai? Un ristorante, un bar, che cos'hai? Non no, niente, ci sono un ragazzo e noi andiamo a fare la spesa. Ma chi va a fare la spesa? Per chi? Per i ristoranti, lui va per i ristoranti. No, per casa sua, vai a fare la spesa per casa tua, allora che vuoi? Perché vogliamo capire... Perché dovete chiudere queste benedette ristoranti? Ma tu non... Ma perché vogliamo capire? Tanto è uno che parla, che cazzo vogliamo capire? Esatto, scusa, sei tu che parli. Lei è uno, il signor Eddie, che pone una domanda. Come faccio io a fare la spesa? Che cazzo ne perché so? Come faccio io a fare la spesa? Come fai? Va al supermercato e fa la spesa. Quella è l'unica cosa aperta, andrà lì e quello che può comprerà. Ma che cazzo di domanda è? Basta, adesso mi sono rotto il cazzo! Ma di che cosa? Io mi sono rotto il cazzo. Vedi che però c'è un elemento che è la sanità mentale, che in questo periodo ma quello è messa a dura prova. Ma no, ma sempre, qua anche quando non c'è il COVID. Di che cosa ti sei rotto il cazzo, Eddie? Di che cosa ti sei rotto il cazzo? Per fatto della situazione del COVID, perché le persone stanno chiuse in casa perché non possono andare a fare la spesa. Ma Eddie, come andare al supermercato? Ma l'unico motivo, aspetta, fermo che ci ricolleghiamo con Eddie, fermo. La zanzara. Parenzo, porca miseria, ma te sul Covid sei proprio come la vecchia che quando vai in fila al supermercato ti vede che hai fretta e ci mette il doppio. Sei proprio una rottura di cazzi, Parenzo. Levati quel pullover che sei vergognoso, sembri un cotechino, uno zampone. Sono consapevoli che questa settimana in Parlamento, alla Camera, di che cosa si è discusso? Della legge sui trans. La legge sui trans, non ha... Eccola qua. No, dov'è? Qua. Paese a picco si fa la legge sui trans. Ha ragione perfettamente. Ma una cosa non esclude l'altra, ma che ma vuol per dire? Per carità. Vuol dire? Dare diritti alle persone, non va... libertà, poi dai diritti alle persone. Ma non diritti? Scusami. Che c'entra i diritti con la legge Zan? Che c'entra? Ma siamo in guerra, siamo in guerra, è una situazione eccezionale. Esatto, io non me lo vedevo Churchill a fare la legge sullo stato di inquinamento del Tamigi, che pure sarebbe stata una roba importante. Cosa c'entra però, scusate? Tutti mobili abilitati a combattere la guerra, cazzo, dai. Se di guerra si tratta. Cioè, sono tutti in Parlamento. Durante la sacca di Dunkirk, non è che Churchill diceva: ah, ma bisogna anche stare attenti allo stato di salute dei cavalli. No, cazzo, c'era Dunkirk, no, ti occupavi, scusa, di Dunkirk. Ma, dai, ragione, la battuta è divertente, la battuta è divertente. Ma non sta la legge Zan mentre c'è la guerra con i morti per strada. Il Parlamento lavora su tutte le cose che ha davanti. Fermo là, fermi tutti. Eddy da Taranto. 10 minuti per votarla. Eddy da Taranto è incazzato. Sì, perché sei incazzato, Eddy? Non ho capito. No, non è che sono incazzato, anzi, io non è che me la sto prendendo con voi, perché io vi porto sempre rispetto anche a voi. Perché vi Ma tu hai un cane feroce in casa? Sì, il problema è sto a casa, è solo che. Ma hai un cane, hai un cane feroce a casa tu o no? No, il cane è normale. Un cane normale. Che cane un è? Piccolo pony? Che cane è? Infatti quello non normale è lui, sarà normale sicuro. Un meticcio. Ma io non ho capito, che cazzo dicevi dei cosi, del supermercato? Il supermercato allora, io di solito mi vado sempre a mangiare nelle pizzerie. Vabbè, adesso non ci puoi andare, d'accordo, la sera non ci puoi andare. E durante il giorno? Io guadagno sempre 20 euro al giorno. Con che cosa? Con 20 euro... No, guardi, per fare le spese a casa delle persone. Faccio anche delle consegne alle persone. Allora? E quindi volevo sapere come dobbiamo fare poi per portare le spese alle persone. Ma che ne so, io le puoi portare la spesa? Vai a fare la spesa e la porta alle persone, si può fare. Certo, aumenterà quel servizio. Ok, va bene. Senta, va bene. Ma va bene un cazzo, va bene un cazzo. Cosa va bene? Voleva sapere questa informazione. Senta, va bene. Lei non dire parolacce, perché io parlo senza parolaccia. Ma io dico quello che voglio, Eddy, non hai capito ancora. Dico quello che mi pare. Senta, no, non dire parolacce che mi dà fastidio. Ma chi se ne frega di quello che ti dà fastidio? Chi se ne frega? Senta, allora. Ma scusa, Eddy, no, mi segnalano che hai un fidanzato a Milano, è possibile? No. In Milano no, non metto neanche piede a Milano. Ma tu sei gay però? Tu sei ricchione. No, ma non c'è niente di male a essere gay, però sei omosessuale o no? Sono omosessuale, io a Crash Club, tu invece Crash la Nure, però te le pizze le Nure. Ma perché ce l'hai con gli omosessuali? Ho detto sei omosessuale, sì o no? Sì. E vabbè, non c'è niente di strano, ma non c'è niente di male. Ma lei è ricchione, no? Chi è ricchione? Ma chi? Cosa dici? Tu, io, tu. Ma non sono ricchione io, no. Allora, perché culo devo essere uomo sensuale? No, omosessuale, senti, no, omosensuale. Omosessuale. Eddy, però, visto con i tuoi occhi, il culo di Cruciani che è in copertina. Ma non lo libri, sa, com'è? Magari, non lo sa. Com'è? È un culo piacevole oppure no? Piacevole, sì. Ma io non ho capito, sai che non ho capito, è un culo piacevole. Io non ho capito una cosa, questa è una telefonata, la classica telefonata surreale, giusto Parenzo? Cioè la classica telefonata surreale. Di uno svalvolato, di un classico svalvolato. Sembra Monica. Dimmi. Senta. Sì. Io per favore non dire parolacce, perché non dire parolacce, non dire parolacce. Per favore non pronunciare il mio nome, mi faccia questa gentilezza, pronuncilo io, non pronunci il mio nome. Mi dà fastidio che persone così pronuncino il mio nome. Mi dà proprio fastidio. Ma che male ti ha fatto? Che male ti ha fatto? Lei non dire parolacce. Ma io non ho detto un cazzo per ora. Ho chiesto semplicemente non dire parolacce. Ho chiuso se non ho deciso di parlare con te. Ma non ho detto un cazzo io, cosa vuole da me? Sto stato zitto tutto il tempo. Aspetta, aspetta un attimo, ferma, dove stai andando? Pronto? Me la devo andare, che c'ho da fare. Che c'hai da fare? Ma cosa da fare? Cosa hai da fare? Devo andare a fare una raccolta. Ma cosa devi fare che è tutto chiuso a Taranto? Sono le 20:08. Qual è il lavoro di Eddy? Devo andare a una parte. Sì, ma che lavoro fai tu? Consegna la spesa a casa delle persone. Faccio lavoro a casa delle persone. Devo portare una spesa, non posso parlare a telefono. Ma è una spesa oppure c'è un po' di droga anche in mezzo a quest'ora? No. Sì, qualche consegnetta particolare, Eddy, la facciamo? Droga non ne faccio. Ma non ne fa? Non ne fa droga. Ma gliel'avevano proposta? Sì, gliel'avevano proposto. Mi chiudo che me devo andare. Ma dove devi andare? A dormire. Ma questo è cretino totale, ma questo è un imbecille totale. Pronto? Gianluca D'Ascoli Piceno, vai Gianluca D'Ascoli Piceno. Sì. Avanti. Ciao, tutto. Buonasera. Salve. Allora, io stasera è via eccezionale, ragazzi, alle 20:20 ci colleghiamo col signor Conte qui alla Zanzara, è incredibile. Alle 20:20 se è puntuale, Ma non credo. Se è puntuale. Beh, però ha detto 20:20 dovrebbe essere. Dimmi Gianluca, Una mia testimonianza per quanto riguardano i morti dei numeri che danno. Io l'anno scorso mio padre l'hanno ricoverato il 6 di gennaio per un'influenza, mio padre ha 90 anni, cardiopatico. ero nel reparto che facevo l'assistenza per 10 giorni, ogni giorno passava la barellina e caricava qualche anziano che era morto di influenza. Vabbè, allora? Di cose. E nel giro di una settimana saranno stati una quindicina. Quindi questi numeri, che prima non esisteva il coronavirus, se uno si metteva a dare dei numeri dei morti di quel periodo là... Cioè tu stai dicendo che c'erano più morti di influenza che di coronavirus, però le stime non... Più morti no, però diciamo che erano... Cioè non cambia un cazzo, dici, non è cambiato un cazzo, dici. Un cazzo no, perché alla fine il... Beh, allora, è cambiato o non è cambiato? Amico mio, se le cifre dicono che ci sono più morti rispetto a... Ma la base di indagine, di costui è il fatto che il figlio di un barelliere, ho capito bene? No, non sono il figlio di un barelliere. Mio padre era ricoverato, però vedevo passare. Aspetta, la aspetta, barella, aspetta, ah, aspetta, li vedevi aspetta, passare. Aspetta. Li vedeva passare, ancora sì, meglio. Sì. Pronto? Pronto? Monica. Io sono pronta, tu? Monica, allora, si può sapere che cazzo volevi l'altro giorno? Io ti dico una cosa, se mi lasci due minuti. No, io ti lascio il tempo che vuoi. Io voglio due minuti. No, anche ma tu meno. Puoi ma anche... Puoi, beh, importante che ma ci dici quello che volevi, la gente è qui in attesa. A me mi hanno lasciato 40 messaggi dicendo, ma alla fine che voleva Monica? Io non ci dormo la notte. Avanti, ecco. Io ti ho dato il permesso di chiamarmi l'altro giorno. Non ce l'hai più. Sì, va bene, d'accordo, andiamo avanti. Cosa volevi? Ma io non ti ho dato mai, sei tu che hai chiamato, mica io, dimmi. Sì, ma cosa volevi l'altro Monica, giorno? Parla, dillo. Dillo Monica, dillo quello che dovevi dire da due giorni. Da due giorni che non dormo perché non so cosa cazzo dovevi dire. Sei tu che mi chiami, non hai permesso di chiamarmi. Ma tu puoi denunciare chi vuoi, il problema non è questo. Richiamala. No, ma dillo Monica, dillo cazzo. Mario, provincia di Verbania, vai. Perché non lo dice? Non lo so perché non lo dice. Era un po' arrabbiata. C'era un po' di rabbia. Sì. Mario, dimmi. Mario? Sì, mi senti? Dimmi, Mario. Allora, ti volevo dire una cosa. Semplicemente la differenza tra l'Italia e la Germania, se mi permetti di dirlo. No? Io lavoro in Germania. Non dico dove. Ma non bisogna mai 4 giorni fa. Scusa? Dunque, quattro non bisogna mai andare in Germania, Mario, perché poi a casa, chissà, poi Adelina, tua fidanzata, cosa fa? Sei simpatico, Dai, Mario, vabbè, vai avanti, dai, ascolta bene. Comunque, cosa succede? Che trovano un positivo 5 giorni prima del lockdown tedesco gastronomico, perché in Germania dal 1 novembre c'è. Trovano un positivo nel ristorante in tempo di 30 minuti, tutti i 13 mitarbeiter, tutti i 13 dipendenti del ristorante andiamo a fare il tampone. In tempo di 30 minuti e la sera abbiamo il risultato. La sera stessa abbiamo il risultato, dopo due ore, perché io sono il restaurant manager di quel posto, mi chiama subito l'ASL, l'Gesundheits... mi chiama subito a telefono per dirmi subito il tracciamento, sapere tutto quello che dove eravamo. Cioè tu stai dicendo che le cose sono molto più rapide, molto più efficienti, questo qua non è... 30 minuti fare il suo, 30 minuti no, ma fare non è una sorpresa, amico mio, non è una sorpresa. No, poi un'altra cosa ti voglio dire, perché poi oltretutto in Germania le cose che si dicono sul telegiornale italiano sono sempre molte cazzate. Va bene, il lockdown che c'è stato quando c'è stato da noi, che abbiamo fatto anche due ore e mezza, perché io sono anche milanese, allora? Due ore e mezza al supermercato, in Germania non c'è mai esistito. Regalavano in strada le mascherine e il gel in generale. Fermo là. Chiedo scusa, un momento, pubblicità. La Zanzara. Non succede, ma se succede mi faccio sverginare. Ma senti, coglione, tanto lo sappiamo tutti che sia la turca e il turco, sia quell'altro che dice a te ti piace canso, quelli lì ti hanno già sverginato. Ciao crew, mentre migliaia di italiani stanno morendo di fame perché l'economia è crollata grazie a questa cazzo di coronavirus, finalmente oggi hanno approvato la legge Zan. Ma te ne rendi conto? Ma te ne rendi conto? Come per tutto chiuso, ma i parrucchieri sono aperti. Sì, perché per andare al bar, per andare a fare un po' di shopping, abbiamo bisogno di pettinare, abbiamo bisogno di fare i capelli. Perciò tutto chiuso tranne che i parrucchieri. Ma questi sono veramente fessi. Bisogna veramente fare qualcosa. Questi ci hanno rovinato veramente. Lanfranco da Vicenza, vai Lanfranco, dimmi, dimmi Lanfranco, dimmi. Lanfranco? Tu. Pronto? Pronto. Pronto, Parenzo? Ehi. Ah, che Parenzo? Sono Efe. Ciao. Pronto? Pronto? Pronto? Questa risponde sempre, infatti, dov'è la novità? No. Lanfranco Vicenza, vai Lanfranco, dimmi. Qua, eccolo qua, Crucia, ci eravamo sentiti dopo la tua cenetta a Gambellara quando hanno beccato il tuo amico positivo. E da lì in poi hai cominciato a usare la mascherina, mi hanno detto. Prima eri negazionista, non dicevi che non c'era il virus, che la mascherina non serviva un cazzo. Parenzo, ti ricordi quando il tuo amico Cruciani diceva ma sì, ma è un'influenza, ma mai detto, mai detto. Ma lo sappiamo tutti. Massimo l'ha detto, Massimo l'ha detto con tardo questo. Non c'è. Ho sempre detto che sotto i 70 anni, non c'è. Sotto i 70 anni è generalmente un'influenza. La seconda ondata non c'è, non c'è, esatto, la seconda ondata. Giacinto da Genova, Giacinto da Genova. La seconda ondata Giacinto non c'è. Giacinto da Genova, vai Giacinto da Genova. Che gli studiosi dicono, ma quali studiosi? Da Genova. Cruciani, stai fallendo quel corpo. Giù il microfono là, mamma mia, che rottura di coglioni. Madonna, che rottura di coglioni, Parenzo. Un porta sfiga, un menagramo, ma un menagramo. Sembra che goda di questa situazione. Sì, ma gode. Quando dice i contagi, ha un'erezione. Non ha un'altra spiegazione. Ogni giorno un'erezione. Ogni giorno un'erezione. Incredibile, è l'unica erezione che ha, peraltro, perché non credo che ne abbia di diverse. Eccolo, dimmi. Giacinto, no. Ne ha avute di diverse. Allora, quattro. Ne ha avute quattro che sono i figli. Andiamo. 4+2 quando c'è lockdown oppure quando ha dei figli, e lui è così. Io la seconda ondata non c'è. Non l'ho mai la detto. Seconda ondata non c'è. Non c'è la seconda ondata. Non c'è. C'è mai stato. Due cose. Non c'è. Il concetto di libertà. Ma se uno ha paura, perché non se ne sta a casa? Scusate, però io oggi ero a pranzo fuori. Dov'è che ho paura? Era un ristorante fuori. Allora sei il responsabile. Potevo andarci e ci sono andato. Ma chi ha mai detto di non andare? Scusate, però ho mai detto di non andare a pranzo? Stamattina, oggi ero a pranzo al ristorante Al Ceppo con il direttore di Confita. Sì, ecco, col direttore marchetta. Di Confita. Ma col direttore. Era un pranzo di lavoro. Ma anche l'altro giorno, chi ha detto che dovete stare a casa? Io rispetto le regole. Chi ha detto che devo stare a casa? Io ho detto solo che la seconda ondata ci sarebbe stata. Non è che l'ho detto io, l'ho letto e mi sono fidato di questi studiosi. Allora ragazzi, nei giorni scorsi anzi ieri, c'è stato il caso del prete della provincia di Macerata che ha detto, che ha messo sullo stesso piano l'aborto e la pedofilia. Don Andrea della provincia di Macerata, anzi di Macerata credo. Allora, noi chiamiamo adesso una signora che si chiama Angela Ciconte, proviamo a chiamarla, che è un'anti-abortista di queste pazzesche, per vedere se questa cosa qui in qualche modo no viene condivisa. Ma è necessario chiamare sta gente? Cioè, ma è scritto su qualche contratto che dobbiamo chiamare i matti? Sì, dobbiamo chiamarla. Pronto? Sì, Angela? Sì? Sono Cruciani, come stai? Bene. Senti, volevo sapere da te una cosa. Tu sei sempre contro l'aborto, naturalmente, immagino, no? No, io non sono contro l'aborto, io sono Per la vita? Sì, no, certo, per la vita naturalmente, ma sei contro la legge sull'aborto, immagino, cioè no, pensi che l'aborto sia un omicidio, immagino. Penso che si possano fare leggi migliori e sì, certo, l'aborto è un omicidio. Un omicidio. Certo, certo. Voglio l'altro giorno c'era un prete in un posto a Macerata che ha detto una cosa molto forte, cioè ha detto alla fine che cos'è più grave, l'aborto o la pedofilia, o un atto di pedofilia, dicendo in realtà, capito, l'aborto è più grave della pedofilia. Ma guarda Cruciani, un sacerdote dovrebbe sapere meglio di me che non c'è un peccato maggiore o un peccato minore, ma c'è il peccato. Cioè, sono due cose diverse. La pedofilia è un crimine. L'aborto non è un crimine. Scusa. È un omicidio, quindi è un crimine, sì. No, non per la legge. Poi la legge umana l'ha, come dire, contestualizzata e l'ha declassata da crimine, però rimane un crimine come legge morale sicuramente. Sì, ma ho capito, però un crimine non si può mettere sullo stesso piano una cosa che la legge prevede come crimine, la pedofilia, è una roba che in realtà è una scelta della donna, una libera scelta della donna, è una libera scelta della donna l'aborto. Ma guarda, quella donna che viene uccisa nel grembo della madre e comunque non ha una libera scelta di vivere, quindi è una libera non scelta è una donna quella. Della donna. Non è considerata una donna in alcun modo. No, non è vero, se si facesse andare avanti il corpo della feto. Natura, ma è un feto. Comunque è un essere vivente. È un feto, giuridicamente non è una persona, è un ma feto. Ma non è la si formano ancora tutti, mancano alcuni organi, non è giuridicamente, non è una persona. Queste leggi umane che sono contro le leggi di Dio, contro la natura stessa. Beh, lei bisogna andare in Iran se lei vuole, per avere le leggi divine bisogna andare in una teocrazia, lì si possono fare le leggi divine, certo. La teocrazia è questa roba qua. Il problema vada dell'Europa. Lei sta benissimo. Vada in Iran. Guardi, i popoli arabi ci stanno invadendo, quindi ci siamo qua. No, però adesso non sta invadendo nessuno. Vada in Vaticano. Sarà la legge divina, immagino, no? In Vaticano. Il danno dell'Europa è proprio quella di essersi cristianizzata. È però, proprio per quello che siamo sull'orlo del baratro, perché abbiamo dimenticato le leggi divine per creare queste leggi umane che sono di interesse di alcune persone. E quindi le pare normale uno che paragona la pedofilia all'aborto? Non è normale, no? La pedofilia è un crimine, e ripeto, l'aborto no. Per lei sono tutte e due dei crimini, io non so che cosa dire. Assolutamente. Uno è un crimine irreversibile, cioè l'aborto, perché quella vita non tornerà più. La pedofilia è un crimine gravissimo, ma è un crimine su cui si può lavorare, nel senso si può mandare in galera è meno grave. No, ho detto che uno è un crimine irreversibile, e l'altro è irreversibile, cioè senza ritorno. È un crimine su cui si può agire perché si può mandare in galera il pedofilo e si può comunque fare un processo psicologico di aiuto. Tecnicamente le dice più grave, perché l'aborto è irreversibile, perché viene uccisa una persona, secondo lei, no? Viene ucciso un essere umano, quello che lei considera un essere umano, mentre la pedofilia si può rimediare alla pedofilia. Ma è una vergogna questa roba qua, è vergognosa questa roba qua. Ma che vuol dire uno è irreversibile? Quello che stai dicendo tu è vergognoso. Nel senso che un omicidio è irreversibile, nel senso che quella vita non c'è più. Un altro crimine grave, ugualmente grave, comunque non è irreversibile, nel senso che si può mettere in galera il pedofilo e si può comunque aiutare la persona che ha subito il danno. Passa tutto, prendono la mia bambina, la violentano, no? E poi dico, ma sai, poi il tuo violentatore è finito posso in carcere, quindi domanda. Sai, posso, amore no, è irreversibile, no? Ho detto, ditemi voi se è un omicidio, se è un se è una ferita. Una ferita è più grave o meno grave di un taglio cruento che uccide. Cos'è più grave? Capito, una ferita che non fa morire o una ferita che fa morire? Ma quella è una, ripeto, l'aborto, la donna sceglie di abortire un feto, è la legge che lo prevede, quell'altro è contro la legge. Perché la legge prevede qualcosa è necessariamente giusta. Ma amica mia, viene ormai accettato ovunque l'aborto, cioè basta con sta storia che uno lo considera una specie di crimine odioso, cioè ma lei vorrebbe vivere nel mondo, nel regno di Dio, che non esiste il regno di Dio. Cioè, nel regno di Dio, i gay che posto hanno nel regno di Dio? Beh, non ci sono. Sono delle persone che compiono dei peccati, come ci sono tanti altri peccati, sono delle persone che hanno sicuramente subito delle ferite che devono essere aiutate. Ferite, ma chi ha detto che devono essere aiutati? Si amano, si vogliono bene. Pensano di amarsi. Come pensano di amarsi? Allora, l'amore contempla anche comunque il rapporto sessuale che dà vita. Tu dici pensano di amarsi, perché io conosco un sacco di gay che si amano. Vabbè, ma lei scusi, come fa a classificare che loro è un amore reale? È un'amicizia, no? È un'amicizia. Ma no, un amore, si amano. Allora, se due stiamo parlando di amore coniugale, no? No, di amore tra due uomini oppure due donne. Secondo lei non possono amarsi, guardi, due donne e due uomini. Io amo mia figlia e se io ho un rapporto sessuale con mia figlia è pedofilia, giusto? Ma che c'è, è incesto. Anche pedofilo pensa di amare. Quindi, ma lei sta paragonando, l'amore, scusi, l'amore gay alla pedofilia, scusi. No, state paragonando l'amore omosessuale all'amore coniugale, è diverso. Certo. Allora io sto chiedendo a voi. È la stessa cosa. Ma lo dite voi. Per un cattolico che come la Chiesa insegna. Ma per lei vanno curati i gay? Non ho capito. Vanno aiutati. Si può tornare etero, secondo lei? No, vanno aiutati a elaborare quelle che sono le loro ferite. Ma non c'è da aiutare nessuno, signora. Sono persone che si amano, come lei ama suo marito. Però io dico una cosa: due uomini che fanno sesso, che effetto le fa a lei? Dunque, due uomini che fanno sesso. È un peccato. Sicuramente è un peccato. A me personalmente non mi piacerebbe vedere una scena del genere. Perché è completamente innaturale. È contro natura, cioè i gay sono contro natura. Assolutamente sì. Lei ha mai visto due cani maschi che fanno sesso? Sì, io avevo un cane, lo chiamavo Duca ed era Ricchione. Io avevo un cane Ricchione, le giuro che avevo un cane Ricchione. Benissimo. Sì, inculava gli altri cani. Purtroppo è così, non è che l'ho fatto sopprimere. Ma scusi, due donne che fanno sesso invece? È la stessa cosa. Per voi è un bel vedere due persone dello stesso sesso che fanno sesso. Per me è bellissimo, io ho fatto un po' di orge. Due donne, le confesso che le orge sono straordinarie. Sì, certo. Ma Cruciani, posso dirle una cosa? Mi rivolgo a Cruciani. Io le do un consiglio: approfondisca la fede, quella cattolica. Perché veramente signora, una persona come lei. Ma signora mia, perché devo approfondire la fede? Io sono ateo, Che devo fare? Ma finché vivo può ricevere la chiamata del Signore. Tutte queste cose sono azioni peccaminose. E dunque si può fare sesso solo per procreare? No, si può fare sesso con il proprio marito, sposato, con il sacramento del matrimonio. Prima no? No, nemmeno. Prima lei è sposata? È peccato. E prima non l'ha fatto, è arrivata vergine al matrimonio. Scusa se te lo chiedo, sei arrivata vergine al matrimonio? Sì, il peccato è peccato. Peccato o meno peccato. Vabbè, Angela, arrivederci, grazie. Esther da Milano, fermi tutti, fermi tutti. Senta, anche se mi scherza, quando io le telefono lo stesso, no? Volevo dire, se lei fosse al governo, no? Sì. Che con questo virus qua cosa farebbe? Esatto, ma che c'entra? Innanzitutto avrei preso decisioni prima, forse, invece di questo balletto di questi giorni ridicolo, questo sicuro. Non lo so. Io al governo, che me ne frega, non sono io che devo governare. No, ma siccome che lei chiacchiera, dice, sì. Io sono pagato per chiacchierare. Che dice lei sono giuste. No, ma assolutamente lei dica, no, figuriamoci. No, ma senta, ma lei dica cosa... Proteggere i più deboli e far circolare tutti gli altri. Questa è la mia idea che mi sono fatto nel corso dei mesi. Se uno è più debole o uno non è più questo debole? Questo è più complicato, certamente una cosa complicata. Gli anziani, eccetera. Guardi, è una cosa brutta. Anch'io ieri sono andata dalla parrucchiera, era lì. Ma che cosa andava a fare la parrucchiera? No, era lì col magone perché aveva paura. Deve chiudere adesso no, il parrucchiere. No, sono aperti tutt'altro. Non lo so, nella zona rossa non lo so. No, anche nella zona rossa rimangano aperti i parrucchieri. Ma ragazzi, l'ha appena detto. A tutti ci dispiace, ma si figuri che oggigiorno poi con i... Tu devi stare tappata in casa, Esther, tappata in casa. Pazienza, io i nipotini non vorrei mica attaccare il virus ai miei nipotini. Io sto in casa mia, lo faccio anche per riguardo degli altri, non solo per me. È arrivata Esther la responsabile adesso. Guardi, lei deve... Ma vada a quel paese, Esther, non rompa i coglioni, dai, Paolo da Milano. Paolo, dimmi. Per carità, una vecchia rincoglionita come al solito. Dimmi Paolo. Pronto? Dimmi Paolo, dimmi. Giuseppe, però io ho bisogno di parlare con te, di confidarmi con te. Sì, però devi farti sentire, però Paolo. Devi farti sentire, Paolo. Mi senti? Sì, Giuseppe? Ti sento, dimmi Paolo, dimmi. Il mio fidanzato, Giacomo, puoi venire qua per favore? Sì, vabbè, non vi inventate sta pantomima, dai Paolo, che vuoi, dimmi. Allora, io sto cercando di convincere il mio moroso a fare pissing. Sì. Lui non vuole farlo perché dice che è schifoso, che è poco igienico. Ma beh, io, ragazzi, però io non posso convincere qualcuno a fare pissing. Posso dirti che è una cosa, posso dire al tuo fidanzato Giacomo che è una cosa igienico cosa. Che è una cosa straordinaria. Te lo mette in culo. Che roba è? Dai, sarà meno igienico. Ma approfondiamo domani questa cosa interessantissima. Paolo e Giacomo, con Giacomo che non vuole fare pissing. Italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.